Vabbè, sono Gino Cervi, ciao a tutti, ma non mi ricordo mai come vi chiamate, Giro Limoni, Giroglifici, no, Giroglifici era quello vecchio, però sì, vabbè, ciao a tutti. Amiche e amici del ciclismo, del Giro d'Italia, delle scale, scale mobili, scale immobili, scale a chiocciola, scale di marmo, perché la vita è fatta a scale e così è anche la città di Perugia che ci ospita quest'oggi, ci ha accolto con tutta la sua meraviglia, che è sempre tanta a Perugia, un po' meno allegramente ci ha raccolto il bed and breakfast che ci ospita, di cui non faremo il nome, ma per il cui ingresso c'è una cassetta complicatissima che nessuno riesce a utilizzare. Di questo ne parleremo più avanti, solo di questo parleremo quest'oggi nella puntata odierna di Gironimo, il podcast dedicato al Giro d'Italia di Alvento con le voci di Bidon e supporto meccanico di Shimano. Le voci in particolare sono quelle di Marta Bacigalupo. Siete voi che siete luddisti e questa cassettina vi ha mandato nello sconforto. C'era solo da mettere un codice. Io sì, sono luddista e soprattutto sono a favore di una cosa passata di moda che è l'umanità. Con noi c'è, non acclamato da nessuno quest'oggi, snobbato per la prima volta all'inizio del Giro d'Italia, Michele Pelaio, Tarcisio, Ermanno Pelacci. Sai tu che sei un boomer, Filippo, in realtà. Cioè, basta mettere un codice e aprire una cassetta, è molto facile. Sì, ma io dico, se apri un bed and breakfast, vai dalla gente e dagli le chiavi, che è sta roba, bisogna mettere i codici che poi non funzionano, diciamoci la verità. Comunque, il grande decifratore di codici, il più grande decifratore di codici dell'umanità, diplomato all'Università di Addirittura. Oxford, Leonardo No, non è Piccione. vero, non è vero. Ciao a tutti e buonasera. C'è una prima volta anche oggi. Per me è primo gelato del giro, va festeggiato mangiandoselo. L'ho già fatto prima, quindi sono Gusto? contento. Ovviamente pistacchio. Solo pistacchio, Solo monocolore. piccolo perché mi voglio lasciare spazio per la cena di questa sera. A Perugia si mangia benissimo, come saprete, credo. Allora, devo dirti che mi sto talmente appassionando dell'acrostico tuo che mi sto allenando, sai? Anch'io oggi ho provato a fare un acrostichino. Si dirà? Boh, vabbè. Non lo so. Però fa troppo schifo e quindi ho detto ancora non lo pubblico. Tra qualche tappa magari, Tra qualche ok? tappa, Sì. va bene, sono disponibile ad accogliere sfide o comunque confronti, Confronti, confronti sugli diciamo così. acrostici. Non lo farai mai un confronto sugli acrostici con il maestro Gino Cervi che ha introdotto questa No, puntata, con perché ne lui non. usciresti con le ossa rotte, ma stiamo su invece su, insomma, sull'acrostico Vabbè, odierno che oggi. sarà sicuramente straordinario come quello degli ultimi giorni. Non so se come quello di ieri, Quello che ha di ieri è avuto un difficile. successo che potrei definire pelacciano. Quasi, quasi. No, oggi c'era un aiuto perché la parola Perugia comincia con la P di Pogačar. Quindi ho sfruttato questo assist che il capoluogo umbro mi ha fornito. E quindi l'acrostico di oggi è Pogačar esonda, randellando un giro incontrovertibilmente ammansito. Beh, Marta, meno che ne male che non hai pensi? detto un gerent Con la D. completamente ammansito No, perché non in solo lui ha randellato oggi Pogačar, un po' tutti, e insomma, la pietra tombale forse, almeno sul discorso classifica generale di questo giro. È vero che le sorprese sono sempre all'ordine del giorno nella corsa rosa, però insomma, oggi una vittoria di proporzioni anche superiori rispetto a quelle che lui stesso pensava. Ha detto che è stato anche un po' sorpreso dalla dimensione del distacco. Ma di tutto questo e di molto altro parleremo a breve nell'analisi della tappa. Prima bisogna fare la sintesi della tappa e chi Ah, altro. non parliamo adesso dei bed and breakfast con le scatoline con il codice. No, penso che lo faremo più tardi, o forse no. Ho una scaletta sbagliata. No, è la sintesi della tappa con le sillabe d'amore di Michele Pelacci, prego. In attesa dei nomi più importanti, si è parlato soprattutto della neve sullo Stelvio, parte della 16ª tappa. Via via che gli atleti arrivano al traguardo, sulla hot seat siedono, tra gli altri, Lorenzo Milesi, Mikkel Bjerg e Filippo Ganna soprattutto, che fa registrare il tempone di 52.01, dando almeno 100 secondi a tutti. Gli si avvicinano poi Schachmann, Arensman e Sheffield. Per molti minuti sembra fatta per la tripletta Ineos, poi Tadej Pogačar, niente meno, la maglia rosa entra nell'ultimo settore. Sulla salita verso Perugia, lo sloveno dà almeno 32 secondi a tutti, più di un minuto a Ganna e completa una rimonta pazzesca. Di tutti gli altri uomini di classifica, parliamo a breve, fatemi solo citare la prova più incoraggiante. più ben sperante per il futuro? Ben sperante. Non so se si dice. Quella di Antonio Tiberi. Vero, è andato molto bene oggi. Pensavo fosse quella di Ben o Connor, quella più ben sperante. No, leggiamo l'ordine d'arrivo. Oggi è semplice perché di solito quando vince un corridore che non è il corridore Pogacar, bisogna fare i conti. Quelle rare volte. Bisogna fare i conti. Il distacco dal vincitore di tappa e dalla maglia rosa. Oggi il distacco non va calcolato perché è lo stesso, la maglia rosa e il vincitore di tappa sono la stessa persona, Tadej Pogacar. Al secondo posto nella frazione si è piazzato Pippo Ganna, 17 secondi di ritardo, terzo Magnus Sheffield con 49 a un minuto esatto. Timen Aresman, che comunque è andato bene, è in ripresa, l'abbiamo detto, rispetto all'inizio del giro. Quinto Schachmann, 1 minuto e 05, sesto Tiberi, 1:21. Settimo Luke Plapp, la nuova maglia bianca del giro, strappata a Kian Uijdebroeks, con 1 minuto e 45 da Pogacar. Ottavo Dani Martinez, 1:49. Nono Bjerg, 1:56. E decimo Geraint Thomas, con 2 minuti precisi data dai Pogacar, più di un minuto preso nella salita finale. Fuori dalla top 10 di tappa, O'Connor, 11esimo, 2:07. 18esimo Bardet, a 2:50. 20esimo il già citato Kian Uijdebroeks a 2:55 da Pogacar. Segnalo anche Fortunato, 33esimo, 3 minuti e 37. Juanpe López ha preso 4 minuti e 17, è arrivato 38esimo. 45esimo Storer, 4:25. E 46esimo Domenico Pozzovivo, 4 minuti e 33. Classifica generale che vede, indovinate un po', Tadej Pogacar in maglia rosa con 2 minuti e 36 su Dani Martinez, il capitano della Bora, che da oggi è il secondo classificato in generale. Terzo Thomas a 2:46, quarto O'Connor, siamo già oltre 3 minuti di ritardo, quinto Plapp, sesto Lutsenko, guadagnato 3 posizioni, settimo Uijdebroeks, ottavo Tiberi, che ne ha guadagnate 13 ed è a 4 minuti e 11 da Pogacar, nono Filippo Zana, decimo Lorenzo Fortunato dell'Astana, quattordicesimo Bardet, ha già più di 5 minuti da Pogacar, quindicesimo Juanpe López, ventitreesimo Domenico Pozzovivo. Dal ventottesimo posto in giù il ritardo è già superiore ai 10 minuti. Però Juanpe è arrivato primo sul traguardo del mio cuore, perché cosa ha fatto? Ci hanno raccontato che tornando dalla appena è arrivato, diciamo, al traguardo, dopo il traguardo si è svestito di ogni suo pezzo di kit per regalarlo ai bambini. Hanno detto che si è tolto tutto, gambali, guanti, e ha regalato tutto. Quindi lo immagino un po' andare via seminudo sulla bici. Nudo esatto, in mezzo ai bambini. Che immagine quasi alla Gesù Cristo. Guardati tu come sei conciato qua in questo momento. Adesso così mi paragoni a Juanpe López in questo momento. Fa caldo quest'oggi a Perugia, anche se poi c'è quel venticello fresco. Ma non divaghiamo, non siamo qua a fare le previsioni del tempo né a constatare il meteo di oggi. Se dobbiamo, come dire, interpretare alcune figure che ci spiegano la vita, quelle che più ce la spiegano meglio sono i tarocchi della giromanzia di Marta Bacigalupo. Ah, allora adesso giromanzo subito, anche perché per oggi, diciamo, c'è la carta, quella che pensavo che sarebbe uscita quasi a fine giro, perché è l'arcano senza numero, il matto, è l'unica, quindi adesso è nella giromanzia moderna, gli viene assegnato d'ufficio il numero zero, ma è quello che viene chiamato il punto di partenza per l'evoluzione personale. L'energia senza definizione e il mondo delle possibilità che si aprono, l'impetuoso, l'irrazionale, l'unico, la libertà senza numero. E quindi in questo caso, secondo voi, a chi facciamo forse riferimento oggi? A chi è fuori dagli schemi? Addirittura nei tarocchi di Marsiglia il matto porta il collare del giullare, proprio perché rappresenta l'estrema libertà, poiché i giullari, come voi sapete, forse Pelacci mi insegna, erano gli unici a cui era concesso ogni tipo di cosa, quindi di qualsiasi comportamento. Quindi in questo caso diciamo che colui a cui è concesso tutto ormai in questo giro è lui. Michele Pelacci. Esattamente, ma è secondo solo a chi è tornato in kit rosamino, rosa ciclamino. Eh sì, e me lo sono giocato perché è il principio di libertà, e questa per me è la definizione nei comportamenti e nel rendimento di Tadej Pogacar. Quindi Tadej Pogacar è il matto di questo Giro d'Italia? O Tadej Pogacar è comunque un corridore che Forse da oggi in avanti avrà più libertà di quante ne aveva prima? Cosa ci dà questo cronometro vita dei Pogacar grazie anche a questa lettura tarocchica? Abbiamo avuto un'altra conferma del fatto che Pogacar è mega competitivo su tutti i tipi d'arrivo, perché la prima tappa dei muri era competitivo, la seconda arrivo in salita, super competitivo, ha vinto. Addirittura nelle tappe per velocisti ha provato. Ora pure nel cronometro Leonardo è un campione all around, no? Sì, sì, certo, lo sapevamo. Quello che c'è di diverso oggi, vabbè, intanto le prime tre tappe lui ci ha provato. Le altre tre, 4, 5, 6, no. Quindi forse lui o qualcuno gli ha suggerito c'è chi di... vuole che provi tutti i giorni e chi vuole, esatto, che provi solo qualche giorno. C'è chi vuole... Qualcuno gli avrà suggerito di conservarsi, di risparmiarsi in vista delle tappe decisive. A cronometro notoriamente non ci si può risparmiare, non ci si può nascondere. Lui oggi ha dato tutto quello che aveva e si è visto che è molto di più di quello che hanno gli altri. Tra l'altro non ha nemmeno voluto ascoltare, giusto, live, i distacchi rispetto agli avversari, perché appunto voleva concentrarsi solo sulla sua prestazione, e abbiamo visto sulla salita che danni ha fatto. Sì, l'ho sentito dire a Mauro Gianetti questo, il suo team manager, e diceva che non voleva avere riferimenti temporali da altrui, solo concentrarsi sulla gestione del suo sforzo. Il suo sforzo è stato contenitivo, diciamo, se vuoi conservativo, nella prima parte, finché non è cominciata poi la salita, nella quale ha asfaltato tutti, perché dare 30 secondi in 12 minuti a quei campioni di quel livello vuol dire quasi fare un altro sport, va detto. Sì, lui ha menzionato proprio Thomas e Martinez come avversari dai quali si aspettava qualcosina di più come prestazione oggi. Quindi sintetizzando potremmo dire che sì, lui è il matto di questo giro, ma sta facendo anche ammattire i suoi avversari. E meno male che aveva detto che non correva dal campionato. Correva un cronometro? Sì, sì, certo, un cronometro dal campionato. A me ha colpito molto il fatto che abbia detto sì, che non ascoltava, che non voleva riferimenti temporali, soprattutto perché comunque era un percorso tricky in qualche modo, e quindi voleva assolutamente stare attento alla guida, diciamo, avere qualcuno che lo guidasse, e preferiva dare importanza a quel tipo di informazioni. Prima del vibe check di Leonardo sulla conferenza stampa di cosa ha detto Pogacar, eccetera, Kautz giustamente chiede cosa sia un vibe check. Prego, spiegalo. È un, diciamo, un controllo sullo stato emozionale di una persona. È un esperimento che stiamo conducendo in questo giro, no? Ogni giorno andare di fronte a Tadej Pogacar e cercare di capire cosa pensa, come vive questo giro. Non è semplice, l'abbiamo detto nei giorni scorsi. E a proposito di matti, io dico che a me non fa impazzire l'idea che una corsa possa essere già chiusa la settima tappa. Forse lo è già, lo era già. Ecco, non vorrei che il solco decisivo lo scavasse una crono della prima settimana. Mancherebbe un po', secondo me, di epicità questo racconto, temo, se finisse qui. Il faccia a faccia, per quanto breve, perché a Pogacar gli altri guardano soprattutto il di dietro in salita, ecco, io lo vorrei vedere il faccia a faccia. Il pugno del KO lo vorrei vedere, e non si vedono pugni del KO se si parte a 3 minuti di distanza. Beh, o forse il pugno del KO l'ha già dato. È possibile, spero non la crono. Ed eri distratto. Sì. D'altronde molto spesso nella storia del ciclismo, anche recente, pensiamo al Tour de France dell'anno scorso, il KO viene dato in un cronometro. Non è una cosa di cui scandalizzarsi. Non credo che sia già il KO questo. Un po' lo dico perché ci serve per tenerci... Come si chiamano gli ascoltatori del podcast? Non sono radioascoltatori, internet ascoltatori sul nostro podcast. E quindi questa è una così... Gli vado incontro e gli dico no, il giro è aperto, a voglia. Ma un po' perché il giro forse... Insomma, qualcosa ancora può succedere. È chiaro che tutti sappiamo che 99% Tadej Pogacar vincerà questo Giro d'Italia, ma regalo, sapevamo già anche alla vigilia. Sì, io sono convinto che lui vorrà apporre il suo marchio anche in una o più tappe di montagna. L'ha detto anche oggi, le salite vere non sono nemmeno iniziate, come per dire il mio giro deve ancora cominciare nonostante tutto quello che ho già combinato. Quindi io sono convinto che lui vorrà lasciare, ripeto, la sua firma su questo giro anche con delle imprese in montagna, in quelle tappe che poi fanno la storia di una corsa come il giro, e sono convinto che lo farà. Se la storia della lotta per la maglia rosa potrà riaprirsi, non lo so, è difficile, ma siamo qui per questo, siamo aperti a ogni possibilità. Parliamo, ecco, di quello che abbiamo visto nel track della conferenza stampa. Prime due parole ascoltate da Pogacar entrando a microfoni spenti. Fucking disaster, it's a fucking disaster. Si riferiva probabilmente alla logistica o appunto ancora una volta a questo protocollo che lo obbliga a fare il giro delle sette chiese andando a parlare con tutti i giornalisti del mondo. C'è anche l'ipotesi che invece alloggi al nostro stesso B&B e doveva aprire quella scatolina con il codice. Stesse pensando a quello, può essere. No, esplicitamente rispondendo a una domanda ha detto la mia vita sarebbe molto più semplice se non ci fossero le interviste, se non ci fosse la conferenza stampa. Io ho un'altra opzione, forse Taddei ha origini genovesi, perché questo atteggiamento è chiaramente quel mood da pessimismo e fastidio che ben conosco. In ogni caso, quello che possiamo fare domani, possiamo andare a rassicurare Taddei, finalmente ci mettiamo solidali, anche la nostra vita sarebbe molto più semplice se non dovessimo fare le interviste. Sicuramente, se non dovessi parlare, per me sarebbe molto meglio, per esempio, ma abbiamo discusso un po' anche tra noi e secondo me è un tema interessante, la legittimità un po' delle sue parole, delle sue critiche. È effettivamente bizzarro il fatto che lui debba ripetere tante cose a tanti giornalisti diversi, alle Flash News prima, in Mix Zone poi, in press conference, quindi al track con tutti i giornalisti che vogliono presentarsi. Quindi da un certo punto di vista empatizziamo con lui e possiamo capirlo, no? Perché tante volte fai un conto, lui dopo l'arrivo della tappa, quindi quando hai l'ossigeno al cervello rarefatto, diciamo, quando hai l'emozione a mille, eccetera. Un po' come te sempre. Esatto. Un'ora tra tutte queste cose è tantissimo, quando lui vorrebbe probabilmente solo andarsi a riposare, no? Sì, è vero, ma non è il primo a sperimentare questa situazione. Succede praticamente sempre. Non è un protocollo introdotto nel 2024 per Taddei Pogacar. È sempre stato così ed è così anche nelle altre corse. Al Tour de France è lo stesso, esatto, forse Leonardo, peggio. Ma non è sempre così. Sì, non è per lui soprattutto così. La prima volta, perché non è la prima volta che è in maglia di un grande giro. Per cui no, io quello che noto è che c'è un distacco abbastanza netto tra il Pogacar che vediamo sulla strada, quindi in corsa, e questo corridore che ci fa emozionare, che corre col cuore, che non ascolta la radiolina durante la cronometro, e poi quello che viene a parlare con noi, che sembra infastidito e vorrebbe essere ovunque ma non lì mentre sta a rispondere alle domande, che è una cosa legittima, perché essere ciclisti professionisti vuol dire andare in bicicletta e andare bene, lui lo sa fare, però è parte anche del loro mestiere venire a confrontarsi con noi. In queste conferenze stampa alcuni giornalisti sono quasi intimoriti di chiedergli delle cose in questo giro. E insomma, un corridore come lui potrebbe essere più rilassato e sorridere anche un po' di più a noi e a chi gli fa le domande. Però il punto che me l'ha reso un pochino più, diciamo, l'ha un po' scaldato verso la fine della conferenza stampa, tu dicevi la differenza è su quando è sulla strada. E lui ha detto chiaramente oggi che invece correre e il giro e il pubblico del giro gli piace, lo diverte e gli dà forza. Ha detto ieri, dopo, in tutti quei 180 chilometri ho sempre solo sentito il mio nome e questo mi ha dato un boost di energia ulteriore. E poi anche un po' accennato, ha detto una cosa tipo che mi dà anche la forza di affrontare il resto. Il dopo. Noi, quindi. Certo. È così. Quindi un'altra ipotesi è quando Pogacar va a fare le interviste, noi andiamo dietro, diciamo Poggi, così almeno gli diamo la forza e le fa. Comunque non facciamo i giornalisti, come si dice, come chiamate voi giovani, gli anziani? Boomer, non facciamo i giornalisti boomer che stanno qui a lamentarsi più di tanto degli atteggiamenti di Taddei Pogacar. Libero di fare quel che vuole. Che giustamente è qui per correre in bicicletta, abbiamo avuto... anche noi, come Pogacar, ha avuto tante volte questa esperienza di fare tante interviste, abbiamo avuto anche noi tante esperienze di interviste con corridori che volevano essere in tutt'altro posto rispetto a quello cui erano. Mi viene in mente un suo connazionale che è in copertina al Garibaldi, ma ce ne sono tanti altri. Torniamo un attimo alla crono di oggi. Vogliamo metterlo tra gli sconfitti di giornata, Pippo Ganna? Beh, in un certo senso si è messo da solo quando, commentando la sua prestazione negativamente, prima che poi venisse, come dire, arrivassero i suoi colleghi al traguardo e si scoprisse che in realtà la sua era una buona prestazione e avrebbe vinto se non fosse stato per Pogacar. Però obiettivamente ha perso, è arrivato secondo, mi sembra oggettivo. E tuttavia, nelle scene simpatiche sulla hot seat, l'abbiamo visto sorridente, l'abbiamo visto divertirsi insieme al suo amico. Non sono compagni di squadra, ma sono evidentemente molto amici. Luke Plapp, che era lì con lui ad attendere l'arrivo degli avversari, degli altri corridori. Sì, e io ho atteso a lungo l'arrivo di Luke Plapp dopo tutto il cerimoniale delle premiazioni e delle interviste, perché Luke Plapp ha conquistato la maglia bianca quest'oggi, è uno dei motivi per cui è rimasto lì fino alla fine, proprio perché ci tenevo a chiedergli anche un po' cosa ci faceva. Sembrava un po' un imbucato a un certo punto, tutti abbiamo pensato, ma cosa ci fa Luke Plapp in televisione tutto il pomeriggio seduto di fianco a Ganna? E allora ho chiesto a lui di raccontarmi questa cosa. You spent the whole afternoon at the hot seat. What happened? You were just away to watch the stage, or you are a friend of people? Oh, I was just reminiscing and sitting down chatting to a good friend. Me and Pippo have got along brilliantly for the last 3 years. He's an amazing friend. We see each other on the road. We were teammates and we race each other on the track in the Teams Pursuit. So look, he's an idol to me. He's one of the best bike riders in the world, and I look up to him. And I hope to, I just love having him as a mate, and it was good fun watching the hot seat. I was devastated for him. I honestly wanted him to win, and Tade was brilliant. And there was a funny moment on TV, like with both with sunglasses, like Ibiza style. What happened? Who had that idea? If Pippo won, maybe we go to Ibiza tonight and we celebrate together. No, it was good fun. I think both of us don't want to take it too seriously, so I was upset for him, but. Look, to be honest, I'm sure he's going to have his time in stage 14 TT. That's right up his alley. Thanks a lot and congratulations. E Plapp dice semplicemente che stava ripensando alla crono e si era messo lì seduto vicino a un caro amico, perché dice: io e Pippo siamo andati molto d'accordo negli ultimi 3 anni, è un amico fantastico, ci vediamo sulla strada, siamo stati compagni di squadra, ci sfidiamo a vicenda nell'inseguimento a squadre. Per me è un idolo, uno dei migliori ciclisti al mondo, e guardo a lui con ammirazione. Mi piace frequentarlo, è stato bello guardare la tappa da lì insieme ed ero molto affranto per lui. Onestamente avrei voluto che fosse lui a vincere, anche se Tadej è stato brillante. E a proposito di brillio, non ho potuto che chiedere a Luke Plapp cosa è successo in quello splendido momento della diretta in cui sono stati inquadrati entrambi con gli occhiali da sole in quello che io gli ho definito un momento Ibiza, e Luke Plapp ha risposto, io l'ho letta dal gruppo tra l'altro questa definizione, non è mia, Luke Plapp ha risposto: se a Pippo va bene, magari andiamo a festeggiare insieme a Ibiza stasera. No, non credo vadano. E poi, insomma, ridendo, dice: no, era solo un momento di divertimento. Entrambi non volevamo prendere le cose troppo seriamente. Ero arrabbiato per lui, ma ad essere onesti, sono sicuro che verrà il tempo per una sua vittoria a cronometro. E poi ci sono questi ultimi 10 secondi in cui non ho capito assolutamente cosa dica, perché la lingua australiana è ostica, per cui lo lascio a voi. Se riuscite a trascriverlo, ditemi cosa ha detto in questi ultimi 10 secondi. E insomma, un bel tipino questo Luke Plapp, proveremo a conoscerlo meglio nei prossimi giorni. Chi stiamo provando a conoscere meglio, non solo attraverso le conferenze stampa, le vittorie di tappa e continuate voi l'elenco, è Tadej Pogačar, grazie alla nostra rubrica, alla rubrica curata da Marta Bacicalupo, che è il Pogačario. Scopriamo oggi un altra curiosità che riguarda la maglia rosa. Marta. Detto che il prossimo che mi vede arrivare probabilmente mi spara, il prossimo a cui chiedo vorrei sapere qualcosa di Tadej, mamma mia, ormai sono il terrore dei perché sette mari. Perché lo chiedi mari. Anche nei bar, ovunque, nelle pizzerie. Ovunque, sì, ormai anche telefonate a casa, insomma. Comunque ho sempre i miei insight e questa volta il mio insight è croccantissimo, perché arriva da... questa volta devo dichiarare la fonte, da due cari amici di Biku, e mi hanno raccontato questa storia. Io non riuscivo più a ricostruire, perché tra i miei amici Tadej viene sempre diciamo richiamato e simboleggiato da un panda. Okay. Voi lo sapete? No, io non lo sapevo. Infatti non riuscivo più a ricostruire questa faccenda e dicevo ma da dove arrivava alla fine? E mi hanno raccontato che in pratica anni fa amici che appunto corrono e fanno gran fondo anche in Slovenia eccetera vedevano sempre questo, cioè, ragazzino, che c'era un partecipante, un ragazzino che prendeva tutti i com, gli rubava tutti i com e aveva su Strava come simbolo, non era con un nome e cognome, ma questa emoji di un panda. Solo un panda. Il panda. Okay. E alla fine poi mettendosi, incrociando i dati come neanche fossero dei pelacci analyzer, sono riusciti a confrontando i tempi eccetera e gli elenchi delle gran fonda, hanno capito che era Tadej Pogačar, quindi quando era ancora molto molto giovane. Adesso è ovviamente dichiarato con il suo nome, ma quel panda è rimasto nei nostri cuori. Quindi possiamo soprannominare Pogacar il panda d'ora in poi. Non so se lui la prenderà benissimo. Chiediglielo, visto che è così certo. Disponibile e sorridente in tutte le conferenze bravi, stampa. Bravi, bravi, mandatemi avanti, cercate di liberarvi di me, se poi mi fa fette. No, perché c'è questa storia, c'è Luca Vergaglito dell'Alpecin, corridore medio-giovane italiano, passato tramite tutta l'Accademia delle gare sui rulli, che ha il suo soprannome Il Bandito, certo. Che viene dal fatto che quello era il suo nickname su Strava. Assolutamente sì, Il Bandito è una leggenda di Strava e Pogacar è stato... È Il Pandito. Il Pandito, bellissimo. E quindi la squadra di Pogacar potrebbe essere la Pandiglia. E con questo chiudiamo questa rubrica del Pogacario, perché sennò finiamo male. Torniamo lì, sul rettilineo d'arrivo di via... Corso Vannucci. Ecco, grazie, perché io temo sempre di mettere il nome di un altro personaggio ultimamente salito alle cronache con un nome simile e non devo fare questo errore. In Corso Vannucci abbiamo incontrato un po' di corridori che erano giunti al traguardo, stremati al termine della loro cronometro. Il primo che abbiamo incontrato, che ha incontrato Marta, è Alessandro Verre. Ciao Alessandro, sei qui dopo su una super prova, com'è andata? Ma tutto bene, non era stata programmata. E normalmente ad oggi con il misuratore di potenza abbiamo sempre i valori su cui seguire, però fortunatamente le gambe stavano meglio del previsto e quindi dai, tutto sommato è andata bene, credo, non so neanche il risultato finale, tutto, aspettiamo. Complimenti, grazie, riposati. E forse non ve lo aspettavate, ma sì, Alessandro Verre ha fatto una prestazione pazzesca, è arrivato 22esimo con 2 minuti e 57 dal Pandito, 2 secondi in più di Aude Brooks. Forse perché ieri ho raccolto la sua borraccia e probabilmente gli ho levato le forze, non lo so, colpa mia. A chi hai rubato? Non è che gli ho rubato la borraccia, era una borraccia vecchia abbandonata e siccome le borracce salvata. Sono per i bambini, io l'ho presa. Fatto benissimo. Un altro corridore che ho intervistato lì all'arrivo non era stremato, perché me l'ha detto chiaramente che lo ascolterete e oggi non ha fatto la cronometro a tutta perché ha altri obiettivi in testa. Ma eri stremato tu magari in quel momento. E per il sole, oggi ho preso una quantità di sole che uno non stremato prendevo. Comunque c'era in questa conversazione. Sì, ma non era il corridore che aveva fatto 40 km a cronometro. Sto parlando di Alessandro De Marchi, che è un nostro amico, collaboratore, tutto quello che volete. Arriva in ritardo rispetto al solito il suo primo intervento nel nostro podcast alla 7ª puntata e gliel'ho chiesto proprio come prima domanda. Ciao. Ciao Alessandro, come stai? Bene. È la 7ª tappa e solo oggi sei ospite nel nostro podcast, è un record negativo assoluto. Beh, allora diciamo che facciamo così, è responsabilità mia che non vi ho dato argomenti e voi che avete avuto altre cose da fare. Va bene, 50-50. 50-50. Esatto. Senti, oggi è abbastanza tranquillo, no? Sì, insomma, era una cosa molto bella, però bisogna anche fare un po' delle scelte a volte, quindi decidere di salvare magari un po' di energie in una giornata così per giocartele in un altro momento, insomma. Ho visto che hai parlato del pubblico, ti sei goduto il pubblico. Sì, cosa significa per te godersi il pubblico? Ma me lo sto godendo perché... Come diceva Fodis, adesso sono abbastanza inflazionato ed è una cosa molto piacevole, che così forse ho iniziato a apprezzare tardi, però sono ancora in tempo per godermelo quando posso, quando c'è, e quindi ad esempio oggi sulla salita finale è stato molto bello. Insomma. Lo senti come una responsabilità questo, che le persone ti conoscono, ti aspettano? Ah, o è solo... Ah no, però è sicuramente una cosa che ti rende orgoglioso, ti fa felice, ti dice che stai facendo un bel lavoro, insomma, che stai facendo qualcosa che la gente si ricorda e quando ti vede dice forza De Marchi. Compi 38 anni durante questo giro, come Geraint Thomas, siete quasi coetanei. L'altro giorno tu hai commentato uno dei suoi post in cui diceva a Pogacar di calmarsi, tu hai detto calmatevi tutti e due perché qua ci siamo anche noi. Eh sì, insomma, siamo tutti quanti un po' in attesa di cosa faranno questi due squadre, i due colossi qui, quindi siamo un po' nelle loro mani. Ma tu, essendo appunto coetaneo e alla sua stessa età, tifi un po' in un certo senso per quanto si possa tifare per un avversario, poi per lui rispetto al giovane? Già l'anno scorso ammetto che facevo il tifo per lui, insomma, più che altro per una questione di generazione, che sarebbe piaciuto che l'anno scorso fosse stato oggi a vincere il Giro. Nulla in contrario a Primoz, assolutamente, però sarebbe stato bello, insomma, a quell'età, con tutto quello che ha passato, per il corridore, il corridore che è G, insomma, insomma, ha un bagaglio non indifferente, voglio dire, di tutto, no? Delle cose più disparate, quindi... Vi parlate ogni tanto in gruppo? Ogni tanto sì, insomma, l'Alps è venuto a farmi complimenti per la tappa, io gli ho detto, sì, io faccio la mia parte per la bandiera della generazione, tu devi fare il resto, e insomma, si è fatta una risata, e... no, però sì. Ti lascio andare perché è ancora un pezzo da fare, sì, dentro Perugia, però è tranquillo, le persone sono... amichevoli. Molto. Okay. Okay. Dai, prendiamo l'impegno e che ci diamo un motivo a vicenda per vederci nei prossimi. Io faccio di tutto per darvi degli argomenti, dei motivi, più che altro legati alla gara, alla tappa, quindi faccio del mio meglio. Dai. A presto allora. A presto. Ciao. Ciao. E allora, ci siamo fatti questa promessa di tornare a chiacchierare nei prossimi giorni per motivi prettamente ciclistici con Alessandro De Marchi, e poi lui è partito per altre centinaia di metri all'interno del centro storico di Perugia, fuori dalle transenne, perché i corridori, come capita anche in alcune tappe di montagna, dopo aver terminato la loro prova, condividono una parte di strada con le persone che vivono le città. Quando si dice che il ciclismo è uno sport che entra nei luoghi e vive i luoghi dove stanno le persone, questi sono proprio i casi in cui li vedi. E quindi i ciclisti, finita la cronometro, si mescolavano ai turisti, agli studenti e alle persone che vivono normalmente, oggi si è trattato di Perugia, ma in generale i luoghi dove passa il ciclismo, con rispetto, almeno io non ho visto nessuna scena di situazione di pericolo o di fastidio per i corridori, che magari possono anche essere successe. Ho visto dei corridori non trovare la strada dell'albergo e le persone si sono fermate, alcuni si sono fermati e hanno cercato di indicare ai corridori la strada, selezionando sul computerino la direzione da mettere. Perugia non è una città semplicissima in cui orientarsi, soprattutto il centro storico con tutte le viuzze strette e così via. Ho visto Dani Martinez a un certo punto in Via dei Priori non trovare la strada. A un certo punto però soprattutto ho visto il vincitore della tappa di ieri, Pelayo Sanchez, che era fermo con un signore e il suo figlioletto che stavano passeggiando, non erano venuti lì per il giro, stavano andando per la città per altri motivi, però hanno visto questo ragazzo che chiedeva informazioni, cercava Via dei Filosofi, forse cercava il bus della Cofidis, Guillaume Martin. E no, vi faccio ascoltare questo audio che ho rubato, tra virgolette, mentre Pelayo cercava conforto e indicazioni da questo cittadino della città di Perugia. Ok, para... Via dei Filosofi. Fondo Via dei Filosofi. Sì, lo so, adesso mi la spieghi. Bravo. Pierre, non tiene una mappa? No. Un telefono, nada. No, bueno, te ho chiesto. ¿Puede impostar el nombre? Sí, sí, sí. Oh, ah, claro. ¿Poner? Poner. No sé. Creo que aquí no hay. Día 27. Sí, la vía. Ok, you're ok? Ok, thank you. Ok, have a nice day. Thank you, grazie. Bene, e dopo la giornata di oggi c'è da dire che sicuramente tutti hanno bisogno di un vero motivatore. Forse Tadej ne ha avuto uno che conosciamo bene. Te lo dice Franco, che è sempre Franco. Ciao follower, ben trovati al nostro angolo di Franco in compagnia di Franco. Chi è Franco? Sono me stesso, io, Franco. Forza Franco! Allora, questa settimana mi avete travolto con questa domanda. Mi chiedevate, Franco, ehi Franco, non riesco a capire perché, nonostante abbia una prescrizione medica, io non vado in palestra. Allora, follower, volete la risposta? Volete davvero conoscere questa risposta? Ve la darò! Prendete i fazzoletti, perché ancora una volta sarò Franco. Grazie, Franco! Franco? La risposta è: non ne avete voglia. Questa è la mara verità. La palestra è faticosa. La palestra è un luogo dove si suda e tu sei stanco. Tu sei pigro. Hai detto pigro? Sì, sto parlando della pigrizia, caro follower, che ti stai succhiando un succo di frutta. Ascoltami bene. Forza, Franco. Eccoti la motivazione del giorno. Di' a te stesso, vai, adesso. Io non sono pigro. Come tutta quella gente pigra che ascolta il podcast di Franco sul divano. No! Io posso cambiare il mio destino. Quando? Adesso, vai, ora, vai, cambia. Io andrò in palestra, nonostante mi faccia schifo quella musica. Costi quel che costi. Costi quel che costi. Adesso Franco ha risolto anche questo problema. Vi do appuntamento una volta per tutte al prossimo podcast con chi? Con me medesimo, ovvero Franco. In compagnia di Franco. Non temete, Franco torna. Franco, non mi avrai perché io sono una sportiva da divano e neanche le tue motivazioni serviranno. Ma ha un podcast, Franco? No, io non l'ho mai sentito e non ci tengo, tra l'altro, però a quanto pare esiste anche il podcast di Franco. E risolve problemi. Cioè, non ho capito bene quale fosse il problema, però comunque lo ha risolto, dice di averlo risolto. Io resto un po' perplesso sul ruolo di Franco, però... visto che ci ha detto che torna, a questo punto lo approfondiremo. La prossima volta che Pelaio Pelacci rimane chiuso nella doccia, chiamiamo Franco che risolve i problemi. Va bene, in attesa di chiamare Franco, chissà poi dove vive, sarà un abitante di Perugia, Franco. Vivrà in Francia. Sì. Se è Franco. Dovrebbe, ma... quindi non sta a Perugia. Abbiamo incontrato però delle persone che vivono a Perugia, fanno delle cose a Perugia, aiutano i ciclisti che si perdono a Perugia. Li abbiamo incontrati e ve li proponiamo in un unico montaggio. Ve li mostriamo montaggio. Con le orecchie, immaginate, ragazzi. Come vi direbbe Franco, immaginate mentre ascoltate. Sì, questo montaggio di contributi diversi raccolti questa mattina, quest'oggi in giro per la città di Perugia. Allora, siamo entrati sul percorso, già mentre ci sono le prove, le ricognizioni della crono, siamo entrati da Paradiso 518 e qua c'è Giovanni che stava poverino pulendo il pavimento, io sono entrata e adesso gli chiediamo due cose perché ho visto che c'è anche un'edicola un po' più su, giusto? Sì, questo è un progetto che ha, diciamo, avuto diverse sedi. La prima è stata l'edicola aperta da Antonio e da Alberto Brizzioli, i due fratelli che hanno deciso di ridare vita a quel piccolo spazio abbandonato in una veste un po' diversa, però, diciamo, l'hanno presa come edicola in cui non vendere semplici quotidiani, giornali, ma vendevano riviste o comunque saggi, libri specializzati di nicchia, facenti parte, diciamo, della scena indipendente dell'editoriale italiana, ecco. Senti, ma se i corridori non fossero, ovviamente, non stessero facendo la salita a crono a 1000, dopo, che libro gli allungheresti? Uno che ti piace, che vorresti... Ok, io penso che molto bello sarebbe per loro, dato che sono in un momento di fatica, questo qui, è un libro del Saggiatore, che si chiama Come smettere di bestemmiare, scritto da Padre Alfonso e Maria Tava. E penso che per un ciclista in quella situazione ci sia, ecco, molte imprecazioni e un buon libro su come smettere di bestemmiare forse possa un po' aiutare. Ottimo, mi sa che lo prendo su anch'io, che questo giro è faticoso. Sono entrata, attirata dal profumino dei dolci e non solo, in una bellissima panetteria, pasticceria, e ho trovato la signora... Orietta. Allora, signora Orietta, mi dica un po', io vorrei assaggiare, ho visto il torcolo... Il torcolo di San Costanzo è uno dei nostri dolci tipici che è legato alla festività di uno dei nostri patroni, appunto San Costanzo. È un dolce fatto a ciambella... con i canditi, l'uvetta, l'anice e i pinoli. Va bene, la dieta la faccio un'altra volta. E questo invece mi diceva che c'è del mais dentro? Sì, questo è un altro dolce sempre tipico, forse un po' meno conosciuto, ma molto apprezzato, con farina di mais, sempre uvetta e mele. E come si chiama? Brustengo. Guardi che se ne allunga un pezzetto ai corridori, dopo sa che prendono i razzi, vanno velocissimi. Certo. Ma quindi siete proprio sul percorso, dopo vi fermerete un attimo, uscirete a vedere i corridori? Sì, certo, penso che ci metteremo sul terrazzino, che avremo proprio una tribuna. Oggi in giro per Perugia ci siamo divisi, ognuno è andato un po' seguendo la sua ispirazione, io invece sono andato a incontrare un amico che è Jacopo, che non vuole parlare. Ciao Jacopo. Ciao. Il motivo per cui ho incontrato Jacopo è che volevo che mi portasse in un luogo che non è esattamente sul percorso di tappa, ma quasi, a una scalinata dal percorso di tappa. A Perugia le cose si misurano in scalinate, lo sapranno anche le mie gambe stasera, ed è un posto eccezionale che è il cinema postmodernissimo, e qui abbiamo incontrato... Ivan, ciao. Giro d'Italia che blocca tutta la città, bene o male? Bene, quando passa il giro sempre bene. Bene, perché non tutti i cittadini di Perugia credo siano di questa opinione. Io sono felicissimo, guardo il giro da quando sono piccolo, perché mia nonna era innamorata di De Zanne, quindi mi ha introdotto al Giro d'Italia da quando ho tipo 3 anni. Le nonne sono la figura fondamentale del ciclismo italiano, io lo sostengo sempre. E tu lo guardavi fin da piccolo, adesso non voglio, smascheriamo subito la tua età, quindi chi era il tuo eroe d'infanzia? Voilà, quando ero più piccolo, Chiappucci, di cui ho anche l'autografo quando il giro partì da Perugia. Prima volta che non sono andato a scuola, ho fatto Salina, non sono andato a scuola, sono venuto a vedere la partenza del giro, c'ho l'autografo di Chiappucci a casa. E poi ovviamente Pantani, dopo in età un po' più cosciente. Ho fatto Salina, significherebbe? Quando non vai a scuola senza dirlo ai genitori. Senza dirlo ai genitori, certo. Ok. Beh, questa è una cosa che il Giro d'Italia incoraggia, questa attività, e anch'io. Come dicevamo, sono chiuse anche tutte le università, contro la cultura, no scherzo. E invece noi siamo a favore della cultura col nostro podcast, per cui siamo venuti a un luogo di cultura di Perugia, che è il Postmodernissimo, che adesso tu ci racconterai cos'è. Postmodernissimo è un cinema, una piccola multisala, perché abbiamo 3 sale, con un bar. Ci piace definirci cinema di comunità. Il Modernissimo, che prima si è chiamato Modernissimo d'Essé, Cinema del Carmine, Cinema della Minerva, se non ricordo, uno dei primissimi cinema di Perugia, credo abbia aperto negli anni 20-30 come cinema teatro. È stato aperto per tantissimi anni, fino al 2000, e è rimasto chiuso per 14 anni. Noi l'abbiamo ripreso in maniera fortuita nel 2014. Ci piace chiamarci, autodefinirci cinema di comunità per un motivo, perché la prima cosa che ci siamo detti è: noi vogliamo coinvolgere la cittadinanza in maniera attiva, ma farli partecipare attivamente proprio sulla programmazione, sull'organizzazione delle rassegne e altro, concerti, teatro. Negli anni abbiamo fatto tantissime cose. Postmodernissimo, che è un cinema, è un bar, è un luogo in cui si fa cinema, si fanno concerti anche, si fa aggregazione sociale. Ti chiedo un po' così, qual è quello che vi muove nella scelta della vostra proposta cinematografica e anche della vostra proposta musicale? Allora, per quanto riguarda il cinema, noi ci siamo sempre, abbiamo sempre detto che non siamo razzisti nel cinema, nel senso che se ci piace, pensiamo che un film della Marvel sia buono, lo facciamo, come facciamo l'ultimo film, non so, di Love Diaz o di Riti Pan. Il nostro gusto personale è la possibilità di dare un panorama il più vasto possibile agli spettatori che vengono in sala, ovviamente accogliendo le loro proposte. Per esempio, ultimamente, guarda, ti faccio questo esempio: a maggio abbiamo chiuso una rassegna che facciamo tutti gli anni, che si chiama Primavera, sulle resistenze. Ovviamente quest'anno era doveroso farla sulla Palestina, e ci hanno aiutato nella ricerca dei film e soprattutto nel coinvolgere gli ospiti 2 associazioni, che sono Icaria di Foligno e Assopace Palestina, e abbiamo lavorato insieme proprio anche da un punto di vista di programmazione della rassegna, per farti capire un po' come ci muoviamo sul territorio e non solo, e che tipo di coinvolgimento ci piace fare, dare, non lo so. Senti, a questo punto il Giro d'Italia a Perugia ci arriva abbastanza spesso negli ultimi anni soprattutto, ma anche storicamente, anche perché è così bella e così sfidante per i corridori, che è un posto perfetto per il ciclismo. A questo punto, quando la rassegna sul film sulla bicicletta? Allora, sono anni che con Giacomo, che è uno dei miei soci, che è molto appassionato di ciclismo come me, progettiamo una rassegna, ma alla fine tutti gli anni arriviamo tardi e non la facciamo mai. Spero il prossimo anno di riuscire a farla. Ma hai già un titolo di film che ti viene in mente, in cui, non per forza un film sul ciclismo, un film in cui ti viene in mente che la bicicletta, ti viene in mente la bicicletta in quel film? Adesso mi viene in mente un film di Tinto Brass in questo momento, che è Monella. Un grande classico. Vi ringrazio ragazzi, adesso venite anche voi a vedere il giro, andiamo certo. Tutti insieme. Tutti a vedere il finale di tappa in piazza. Evviva, buona giornata e in bocca al lupo al postmodernissimo. Ciao. Per chi siete qui? Nairo! Nairo è un orgoglio per la Colombia, uno dei migliori corredori del mondo. Nairo! Benvenuto a Perugia! Pur non essendo famosa come Pelacci, sono stata fermata da un nostro ascoltatore, Nicola, che ha le mani piene di vernice. Io vorrei sapere, insomma, cos'è che fai nella vita? Cioè, non so, affreschi. No, gli ho detto non ho le capacità artistiche, quindi ho fatto un lavoro di sgrosso stamattina. E racconto, no, semplicemente siamo andati sulla salita e appunto con poca fantasia abbiamo scritto i nomi di tutti, perché giustamente anche gli ultimi vanno celebrati. Quindi abbiamo scritto 165 nomi sulla salita, poi Vandenberg. Ma ci avevi abbastanza vernice? Guarda, ho avuto paura, quindi ho dovuto fermare un po' di persone e mi hanno regalato la loro vernice. Poi alla fine gliel'ho restituita perché proprio è finita con Vandenberg. Poi sono arrivato al traguardo stamattina, dopo 7 km, e ho visto che il primo che parte è Mullen perché Vandenberg si è ritirato. Vabbè Nicola, succede. Sei stato comunque onorevole. Onore sono stato. Grazie Nicola per questo tuo lavoro, e abbiamo visto le sue mani, è stato fotografato con delle mani come se avesse finito una roubée piena di vernice, anzi Nicola ci sei proprio piaciuto, palesati e fatti sentire. Colgo l'occasione per sottolineare il fatto che questa foto, se siete curiosi di vederla, è stata pubblicata sui nostri social, quindi anticipiamo il lancio dei nostri social. Lo facciamo alla fine, lo facciamo ora. Se volete vedere questa e altre foto che abbiamo scattato a Perugia, le cose che vediamo e di cui non parliamo durante il podcast, ci sono Twitter, Instagram, Telegram, sia di Bidon, sia di Alvento, e basta, perché già è tanto così. Quindi, ripartendo dal nostro amico, come si chiama? Nicola. Che diceva appunto che anche gli ultimi si meritano di essere celebrati. Mi sembra opportuno parlare del corridore che è arrivato ultimo nella tappa di oggi. Nicola non lo sapeva mentre stava scrivendo il suo nome sull'asfalto, lo sappiamo noi adesso che la tappa è finita. Sto parlando di Madis Mikkels della Intermarché Wanty, uno dei corridori più giovani al via di questo giro. È un ragazzo del 2003, estone di Tartu. L'ho incontrato per conoscerlo meglio, visto che ci incuriosiva sia la sua presenza, è un ragazzo molto promettente, sia la presenza dei suoi tifosi, che nei primi giorni di giro abbiamo visto ovunque. Mikkels mi ha detto che adesso sono già tornati in Estonia, però il resto dell'intervista ce l'ascoltiamo adesso. Buongiorno Matisse, how are you? Buongiorno, I'm good. Do you speak Italian? No. So first thing, can you help us pronounce your name correctly? Madis Mikkels. Oh, it's easier than expected. Yeah, it's not so hard. This is your first Grand Tour, 1 week almost. What have you learned in this first week of a Grand Tour? Yeah, first week almost done. I would say the racing is maybe a little bit different here that I can see, especially in the sprint stages. Road is blocked, sometimes like 50k to go already. You have to be in the front, otherwise it can be over for you. But otherwise, I would say not so much of a difference. Did you have the chance to see something beautiful in this week? Not so much time to check around, but definitely coffee. Coffee? Yeah. What kind of? Espresso, cappuccino? I like everything, but yeah, of course cappuccino is the best one. What time you drink it? In the morning usually. E allora l'ho salutato, buongiorno Madis, come stai? E lui ha risposto buongiorno in italiano, sto bene. Al che gli ho chiesto, parli l'italiano? Lui ha detto no, non lo parlo, si è messo un po' a ridere. Gli ho chiesto di pronunciare esattamente il suo nome e lui ha detto Madis Mikkels, l'avete sentito? È piuttosto semplice, c'è soltanto quell'H prima della K nel cognome, quindi si scrive M-I-H-K, quindi Mikkels. Forse si sente un po' quell'H, ma non approfondiamo. Vai con l'acrostico. Questo è duro, questo è difficile. E quindi gli ha detto: è più semplice di quanto pensassi. Sì, non è così difficile. Lui concorda. Quindi, primo grande giro, prima settimana quasi completata, cosa hai imparato? Gli ho chiesto. Lui ha detto: sì, prima settimana quasi fatta, posso dire che il modo di correre qui è un po' diverso rispetto a quello a cui sono abituato, soprattutto nelle tappe per velocisti. La strada a volte è come se fosse letteralmente bloccata, tipo a 50 km dall'arrivo o sei davanti, altrimenti non passi più, e per te a quel punto è già finita. A parte questo, direi che non ci sono tante differenze. Gli ho chiesto poi se ha avuto modo di vedere qualcosa di bello durante la prima settimana italiana al Giro. Lui ha detto: no, non ho avuto così tanto tempo per guardarmi attorno, però sicuramente tra le cose positive c'è il caffè. E gli ho chiesto un assist così prezioso: che tipo di caffè? Lui ha detto: tutto, mi piace tutto, però il cappuccino, riconosco, è il migliore. E a che ora lo bevi? Gli ho chiesto, e lui preferisce berlo al mattino, come è giusto che sia. E gli ho chiesto come seconda domanda, come seconda parte dell'intervista, come ha iniziato ad andare in bici, visto che tra i suoi tifosi nei primi giorni c'era il suo primo allenatore, e questa è la sua risposta. It was my father, he just asked me, offered me the opportunity, maybe I want to try cycling. I was, yeah, okay, let's go for it, I can try. Because before I did many, many sports like swimming, judo, everything, I tried everything, and yeah. What is better in cycling than the other sports you practiced? I immediately saw that I always liked sports, but when I started cycling, I also started winning races immediately as a kid already, so I clearly had most talent for this sport. What is your dream in cycling, the race that you dream winning one day? It's not one so special race, a big classic, that would be a dream. B Classic or some nice sprint stage in a Grand Tour. Yeah, my dream is just to win big races. Quindi lui dice: mio padre mi ha chiesto se volessi andare in bici, mi ha offerto l'opportunità di provare anche il ciclismo, io ho detto ok, proviamoci, avevo fatto già un sacco di sport prima, nuoto, judo, tutto, ho provato davvero tutto, e gli ho chiesto: e il ciclismo cosa ha di migliore, cosa hai trovato di più bello nel ciclismo rispetto agli altri sport? Mi sono piaciuti tutti, ma appena ho cominciato ad andare in bici, ho iniziato da subito a vincere delle corse già da ragazzino, e ho capito chiaramente che era uno sport per il quale ero portato. E a quel punto gli ho chiesto: qual è la corsa che sogni di vincere un giorno? E lui ha detto: non ce n'è una specifica, diciamo una grande classica o comunque qualche bella tappa in volata nei grandi giri. Il mio sogno, ha detto, è semplicemente vincere corse importanti. E infine gli ho chiesto, ecco, del suo soprannome, perché ho scoperto, grazie al sito ufficiale della Intermarché, che il suo soprannome è Beavis, che suggerisce già qualcosa, ma gliel'ho chiesto direttamente. Just, yeah, actually, years ago, my friend just put me the nickname. After, I think I went to a hairdresser and got a really funny haircut from there, and my friends started to call me Beavis, that I look exactly like him. That's fun. What was your inspiration growing up in cycling? Is there a cyclist from Estonia that is maybe your reference? I was a big fan of Rein Taaramäe and Tanel Gangart, and now I'm teammate with one of them, so. Your goal in this Giro? Try and win a stage. Just a greeting in Estonian, just ciao or something in Estonian. We also say ciao. Really? Yeah. So, ciao. Ciao. E quindi semplicemente, ha risposto Michels, alcuni anni fa me l'hanno affibbiato i miei amici perché ero andato dal barbiere e mi ero fatto fare un taglio bizzarro, divertente. Allora hanno cominciato a chiamarmi Beavis, da Beavis and Butthead, e sembravo esattamente come lui. E poi gli ho chiesto se crescendo da ciclista avesse avuto un'ispirazione, un punto di riferimento, e lui ha detto sì, era un grande fan di Taaramäe e Tanel Kangert, e adesso ho la fortuna di essere compagno di squadra di uno dei due, che è Rein Taaramäe, quindi perfetto. E in questo Giro qual è il tuo obiettivo? Gli ho chiesto, e lui ha detto molto chiaramente: provare a vincere una tappa. Quindi ha le idee molto chiare, oggi è arrivato ultimo, non sappiamo, forse per risparmiare energie. Probabilmente non ha provato a vincerla la tappa. Questa di oggi mi sembra che non abbia provato a vincerla. E alla fine gli ho chiesto: ci fai un saluto in estone, anche solo un ciao? E lui ha detto: diciamo ciao anche noi in realtà per salutarci. Gli ho chiesto: davvero? Sì. Beh, allora ciao, ciao. E si è conclusa questa amabile chiacchierata con l'estone 2003 del gruppo. E vedremo quindi quale sarà la tappa che proverà a vincere Midas Mikkels. Non credo nemmeno quella di domani, però che ne so io di cosa passa nella testa di Midas Mikkels tra tutti quei ciao in italiano e in estone. La tappa di domani comunque ce la presenta il nostro pozzo di scienza, Domenico Pozzovivo. L'ottava tappa del Giro d'Italia da Spoleto a Prati di Tivo di 152 km è la prima tappa con un dislivello da tappone di montagna, seppur non lunghissima. L'inizio è molto impegnativo, con i primi 35 km che propongono in successione, sin dalla partenza, la salita di Forche di Cerro di 7 km, piuttosto regolare intorno al 6-7%, una discesa veloce fino a arrivare nella Valnerina, famosa zona di vocata al Tartufo Nero, e da lì si imbocca la seconda salita di giornata fino a Forca di Capistrello. I primi 13 km fino a Gavelli hanno pendenze anche importanti e sono intervallate da un tratto breve di circa 2 km di falso piano a metà, ma in generale la salita sale sempre intorno all'8%. Una veloce discesa porta all'abitato di Leonessa, dove c'è una leggera contropendenza, e successivamente si scende ancora fino ad approcciare una fase un po' più rettilinea e non particolarmente impegnativa, che porta a Leonessa, ai piedi del massiccio del Terminillo, fino al intorno al chilometro 100. È un susseguirsi di lievi risalite non particolarmente pendenti e discese, alcune impegnative come quella di Albaneto, dopo una settantina di chilometri, che portano nel fondovalle del Velino, e da lì si risale fino al valico di Casalbottone, fino a poco più di 1000 metri, e si ridiscende a Capitignano, dove inizia la penultima salita di giornata, che è il valico di Croce Abbio, molto pedalabile su strade non particolarmente tortuose. In cima a questo valico, dopo 112 km, quindi a una quarantina di chilometri all'arrivo, inizia la velocissima discesa di 25 km su strada piuttosto rettilinea nella prima parte, con diversi tunnel in cui si raggiungeranno anche velocità importanti. E invece l'ultima parte, l'approccio alla salita finale di Prati di Tivo, è un po' più tortuosa. Gli ultimi 15 km, già sperimentati diverse volte la Tirreno Adriatico, sono 14 km e mezzo al quasi 7% di pendenza media, sono molto regolari, conducono fino al rettilineo finale, che è anch'esso su una pendenza intorno al 6-7%. Altimetria di montagna, quindi finalmente sentiamo queste parole. In realtà anche Europa era un arrivo in salita, insomma, ostichetto, ma domani si va in montagna. Domani si va in montagna, ci sono prospettive tattiche diverse per la tappa di domani. Arriva la fuga o non arriva la fuga? Dilemmi che scopriremo soltanto vivendo. No, dilemma che non serve vivere per scoprirlo, perché basta ascoltare il nostro giro di pronostici. Esatto, domani, ma Leonardo. Allora, io dall'alto della mia posizione di, come dire, indovinatore, come si dice? Indovino. È più semplice di quello che penso. Non vorrei mica fare giromante adesso, eh? No, non lo faccio, però oggi mi arrogo il diritto di fare due nomi. Uno nel caso in cui arrivi la fuga e uno nel caso in cui non arrivi. Allora, se arriva la fuga, il mio nome è Nicola Conci. Se non arriva la fuga, il mio nome è Michael Storer. Marta Bacigalupo si astiene, la prima volta che succede in questo nostro giro di pronostici. Allora completiamo il giro e poi dopo tocca a te, facciamo così, domani arriva la fuga e vince Rubén Fernández della Cofidis. Così, un nome, ha detto uno spagnolo random, con nome random, via. È un mio pronostico ragionato, elaborato, con numerose lucubrazioni. Adesso non è che devo, quanto stiamo registrando, stiamo facendo una puntata di 8 ore e mezza, non è che la allungo spiegando perché. Hai ragione, io ti dico che domani tanti credo proveranno ad andarci in fuga, sarà difficile entrarci. Il tema, come dicevano Alan e Ale Autieri sul gruppo Telegram di Alvento, è un po' quali uomini di classifica, diciamo, le posizioni di rincalzo tra la undicesima e la ventesima, più o meno, riusciranno a entrarvi. Secondo me ce la faranno Hirt, Storer e Lutsenko, per esempio. e tra questi vincerà chi ci ha appena vinto. Di nuovo, magari, a Prativitivo, al Giro d'Abruzzo, Alexei Lutsenko. Io invece punto tutto sugli uomini di classifica e punto su Dani Martinez. Come direbbe Michele Pelacci, bella chiamata. Lo sta cercando di farlo a gesti, non so com'è il gesto di bello. Tanto non lo può vedere il nostro pubblico, non dilunghiamoci. Salutiamo il nostro pubblico, ricordiamo che ci possono seguire in questo podcast, che se sono qua e ci ascoltano già ci stanno seguendo, è inutile ricordargli dove trovarlo, sui social di Alvento, di Bidon, sulla newsletter di Alvento, sui gruppi Telegram, pedinandoci per la strada quando ci vedono, il furgone di Alvento che è abbastanza ben visibile, anche molto ingombrante, lo potete vedere con facilità e potete urlarci quello che volete, basta ste urla per Pelacci. Lanciando delle cornucopie nei finestrini abbassati. Cornucopie cerchiamo di passarle. Cioè dipende cosa è cornucopiato. Se sono dei babà, possono anche lanciarli perché non succede niente di grave. E mentre salutiamo, dobbiamo fare un'errata corrige rispetto a ieri. Abbiamo detto che non avevamo incontrato nessun ascoltatore e non avevamo ricevuto nessuna cornucopia. Ma voi siete pazzi! Abbiamo incontrato due ascoltatori che hanno portato una cornucopia a me in persona. Mi sono arrivate delle figurine di Thibaut, quindi ringraziamo Silvia e suo marito, perché hanno detto che quella che avevano visto che ho nel portafoglio è un po' sgualcita. Avevano già guardato nel tuo portafoglio? Certo, tanto è vuoto. Abbiamo dei fan veramente sul pezzo. Comunque non abbiamo finito. Mi ero dimenticato il fatto che questo podcast è realizzato in collaborazione con Shimano, che ci ha messo in contatto con una persona importante. Sempre lui, il grande. È sempre lui, il sensei, perché oggi... Tappa cronometro, abbiamo visto tanta ricerca tecnica, chiaramente come sempre, e cioè, se c'è un argomento specifico nel cronometro sono le ruote. La parola del giorno. Kyono hitokoto. Ruota. Sharin. Sharin. Cosa stai facendo in quel computer? Non è che stai cercando su Translate, devi ascoltare e ripetere. Questo è l'unico modo per memorizzare, come ti hanno insegnato a scuola. Giusto. Ascoltare e ripetere. Come le poesie, no? Come le poesie. Si sta come d'autunno, eccetera, eccetera. Sì, ma non divagare. O mi dici delle cose di Mishima in giapponese, allora va bene, oppure stiamo sul pezzo. Ruota. Sari. Forse è un po' spagnola come accento. Che un po' calabrese, forse. Sì. Non lo so. Bicicletta. Gdenji. Niente, Pelacci, siamo arrivati alla tappa 7 e ancora non ne hai imparata una. Dai, sono un po' almeno rimandato. Sì, ma rimandato alla tappa 8. Cioè, okay. Facciamo così. Adesso noi chiudiamo questo podcast, magari riusciamo anche ad andare a mangiare. Noi tre. Tu stai a casa a studiare giapponese. Ci vediamo a Prativitivo. Ciao.